Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: resta sullo sfondo di ogni ragionamento l'incertezza sulla intensità della ripresa americana. Ieri ne abbiamo parlato, il dato sulla disoccupazione, ma anche sull'andamento del settore manifatturiero. È un dato che ha deluso, le borse ne hanno preso atto, ne ha preso atto anche Barack Obama. Il timore non è tanto, da quello che capiamo, su una possibile seconda recessione, il double dip, quindi la possibile seconda caduta, quanto di una ripresa economica debole, modesta, che non vada a risolvere i problemi. I mercati ci stanno scommettendo, per così dire, tant'è che i tassi di interesse sulle obbligazioni tedesche a lungo termine sono molto bassi, quindi vuol dire che si ritiene che la politica monetaria, i tassi di interesse generali saranno bassi, restano bassi a lungo. Allo stesso tempo non si ritiene però che vi sia un problema sulla tenuta delle obbligazioni europee, ma insomma il mercato scommette che con questo tipo di ripresa debole, deboluccia negli Stati Uniti, con possibilità di rallentamento anche in Cina, i tassi di interesse delle banche centrali resteranno bassi molto a lungo, o più a lungo delle stime. Nel frattempo la Francia oggi ha rivisto la sua stima sulla crescita nel 2011 in maniera opposta a quella tedesca. La Germania, lo abbiamo raccontato, ha aumentato le stime, va meglio del previsto. La Francia un po' peggio, ha portato infatti dal 2,5 al 2% la stima su quanto crescerà l'economia transalpina il prossimo anno, e ha annunciato, come ricordava anche il nostro GR, un vertice la settimana prossima tra i ministri delle finanze francesi e tedesco per mettere a punto le manovre finanziarie del 2011, un asse quindi Berlino-Parigi che inizia a delinearsi in maniera molto molto netta. Come vanno i mercati oggi? Beh, prendono atto delle difficoltà. Già questa mattina Tokyo aveva chiuso con un calo del 2% e oggi non va molto meglio rispetto a ieri. Londra perde in questo momento, è la migliore, lo 0,30%, invece Parigi l'1,3% come Milano. Francoforte perde l'1,1% e l'America sta perdendo uno 0,80%. Si è indebolito leggermente l'euro, è 1,27-1,26,9, ma non mi sembra un movimento, diciamo, degno di tanta enfasi. Di cosa parleremo oggi? Parleremo con Jean-Paul Fitoussi, che è uno dei massimi economisti francesi, presidente tra l'altro dell'Osservatorio francese sulla congiuntura, del perché Parigi abbia rivisto a ribasso e quindi la doppia velocità Francia-Germania, ma anche di questo incontro della settimana prossima, quindi capire che quali possono essere le scelte di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, due leader accomunati da un forte calo nei consensi dal punto di vista politico, con economie però che viaggiano con velocità diverse. Parleremo in apertura anche delle altre notizie che riguardano i mercati, poi di questa vicenda che ormai acquisisce i contorni anche di una vera e propria saga, la guerra del potassio, che non è un problema solo dell'estate quando si suda, ma in realtà è la guerra che ha visto BHP Billiton, il primo gruppo minerario al mondo, offrire 40 miliardi di dollari, cioè quasi tre manovre finanziarie, per comprare la canadese Potash, che è il leader nel mondo del potassio. Oggi anche la Cina interviene, la Cina è sempre molto attenta per esigenze sue a quello che è la geopolitica delle materie prime, ebbene interviene e dice il governo cinese che sta guardando e seguendo con attenzione lo scontro e l'OPA, perché è un'offerta ostile per acquisire Potash, e sarà molto attento a ciò che succederà, anche perché la Cina ha al suo interno la quarta Sinochem, la quarta città energetica in Cina, è stata molto attiva sui mercati e ha per esempio comprato per 3 miliardi di dollari una quota in un giacimento petrolifero brasiliano e poi ha rilevato la britannica Emerald Energy per quasi 1 miliardo di dollari. Quindi la Cina, insomma, sa che per la sua crescita ha bisogno, tra virgolette, di controllare o di garantirsi l'accesso a quelle che sono le materie prime fondamentali, tra cui il potassio, e ne parleremo. E in apertura un ricordo, visto che abbiamo parlato molto di consumi in questi giorni, di potere d'acquisto anche in queste settimane. Ebbene, 3 mesi fa praticamente scompariva, a nostro avviso, ma non solo a nostro avviso, il massimo esperto e osservatore dei consumi e delle dinamiche di come cambiano i consumi in Italia. Mi riferisco a Giampaolo Fabris, nostro ospite più di una volta. Ebbene, vogliamo ricordarlo anche con quello che è il suo lascito così analitico e intellettuale, il libro su cui stava lavorando, la nuova teoria su cui stava lavorando, della neosobrietà, che già ci aveva anticipato ai nostri microfoni, ma che nulla a che vedere con la neopovertà, è un diverso modo di consumare, non necessariamente si consumerà di meno, ma si consumerà in maniera molto, molto diversa. Ci sembrava importante ricordarlo oggi. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Tra i titoli -3,5 Azimut, -2,70 Exor, -2,60 Finmeccanica come Prismian e Atlantia e anche Bulgari e Buzzi Unicem, la Popolare di Milano e Geox e Ubibanca, tutti perdono il 2,5%. Continuiamo con chi perde più del 2%, Ansaldo STS -2,4 come Fondiaria Sai, il 2,3 lo perde ST Microelectronics come Monte dei Paschi, il 2,2% è il calo di Talcementi e di Intesa San Paolo, il 2,1% è il calo di Fiat e del Banco Popolare, ma anche di Autogrill e di Saipem e di Unipol. Di positivo c'è solo Impregilo, +0,90, e Parmalat, +0,4, invariata, quindi un buon dato Unicredit, non perde né guadagna nulla. Pirelli -0,30%, Eterna -0,30%, come Snam Rete Gas -0,4%, Eni -0,5%, sono i titoli che calano meno della media. Petrolio, anche petrolio sente, registra i dubbi sulla intensità della crescita americana e cala $73,4 dollari al barile. Sul fronte delle materie prime, ma ci occupiamo di cereali, di grano in questo caso, la Russia ha annunciato, ha smentito le indiscrezioni che volevano la Russia pronta ad acquistare, pensate, il terzo produttore al mondo di grano, obbligato dagli incendi di questa estate a acquistare grano all'estero. Il governo di Mosca ha smentito di avere alcuna intenzione di importare cereali quest'anno. E comunque il mondo delle materie prime, al di là del potassio, del grano, continua a muoversi. Oggi la Korea National Oil Corporation ha annunciato di aver fatto un'offerta ostile da 2 miliardi di sterline, quasi, sono praticamente quasi 3 miliardi di dollari, per comprare la britannica Dana Petroleum, dopo che già una precedente offerta più bassa era stata rifiutata. E non basta, perché c'è anche... ci sono anche voci in discrezione di una possibile offerta pubblica da parte del colosso del petrolio Dutch Shell, la Shell, Royal Dutch Shell anglo-olandese, vorrebbe fare un'offerta, pensate, da 54 miliardi di sterline, cioè stiamo parlando di oltre 65 miliardi di euro, per comprare la British Gas. E infatti le azioni della British Gas, che è il colosso britannico del gas, come si capisce anche dal nome, crescono di oltre il 6% alla borsa di Londra. Vorrebbe offrire 1600 pence per azione. E invece, come ricordavamo, l'offerta, anche questa ostile, di BHP Billiton, numero uno al mondo nel settore minerario, vale $130 ad azione, 40 miliardi complessivi su Potash. Di questo parleremo fra poco. Andiamo avanti con l'economia internazionale, perché se l'Europa, come dicevamo, deve guardarsi dalla disoccupazione, la Francia appunto oggi ha rivisto le stime di crescita a ribasso, la Germania le ha invece riviste a rialzo, anche il governo tedesco ha detto beh, quest'anno faremo meglio delle attese, andremo almeno al 3% nella crescita. Dicevo, c'è chi ha il problema opposto, troppi pochi occupati. Ed è la Cina, tanto per cambiare. Allora, la cosa è abbastanza incredibile. Qualcuno di voi ricorderà la vicenda delle tensioni fortissime che si erano verificate in quello che è difficile chiamare fabbrica o difficile chiamare zona industriale, perché ci lavorano 900.000 operai. Ed è il centro della Foxconn in Cina, dove vengono prodotti tutti i sistemi e i supporti informatici al mondo, non tanto la tecnologia ma il supporto vero e proprio. Ebbene, per eliminare queste tensioni, gli operai si lamentavano di lavorare troppo, di non avere pause sufficienti, c'erano state proteste fortissime, anche suicidi. Insomma, il governo cinese è intervenuto come? Ha annunciato l'intenzione di assumere 400.000, avete capito bene, 400.000 operai da integrare agli altri 900.000 addetti per calmare la situazione, per far respirare chi già ci lavora. Sono notizie dell'altro mondo per noi, insomma, 400.000 nuovi operai è il numero di sussidi di disoccupazione settimanale negli Stati Uniti, c'è una cifra stratosferica. Comunque, 400.000 nuove assunzioni per evitare appunto che alla Foxconn continuino le tensioni, gli scioperi e fare in modo che non vi siano altri suicidi dopo gli 11 suicidi già registrati dei lavoratori schiacciati dai ritmi di lavoro. 400.000 nuove assunzioni. Della Germania e della Francia abbiamo detto e ne parleremo ampiamente, e soprattutto di questo asse in cui si andrà a discutere le finanziarie tedesche e francese la prossima settimana assieme. Un dato però va ricordato sui rendimenti delle obbligazioni, perché i rendimenti, quanto rende il tasso di interesse dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni, il BTP tedesco a 10 anni, è sceso a un nuovo minimo, al 2,297%. Questo vuol dire che il mercato appunto si aspetta tassi bassi a lungo e costo di denaro basso a lungo, perché immagina una ripresa più lenta delle attese e non vede nessuna grossa tensione chiaramente sulla tenuta del debito pubblico tedesco. E invece sono tornati un po' a salire i rendimenti di alcuni paesi più a rischio, con la Grecia la differenza con quanto rende l'equivalente obbligazione tedesca è ormai a 835 centesimi, il Portogallo 288, Spagna 176, Italia 149. Comunque, questa è la situazione. Noi partiamo con il primo approfondimento, che appunto si incastra molto bene con i dubbi su questa ripresa. La ripresa avviene in due modi, con l'export e con la domanda interna. Allora, l'export per ora c'è stato anche per aziende italiane, c'è stato soprattutto per le imprese tedesche che hanno esportato moltissimo verso l'estero, e questo ha permesso alla Germania di crescere più delle attese. Le imprese italiane se ne avvantaggiano perché oltre a esportare in tutto il mondo, noi esportiamo soprattutto in Germania, quindi se la Germania tiriamo di conseguenza anche noi. L'altra voce per far ripartire l'economia sono i consumi, e su questo fronte invece non si vedono né in Germania né in Francia né in Italia grandi segnali di consumi. E si è sempre occupato nella sua vita Gianpaolo Fabris, che appunto ci ha lasciato lo scorso 20 maggio all'età di 72 anni. Insegnava sociologia dei consumi all'Università San Raffaele e più volte ospite di Focus Economia. Abbiamo chiesto a chi lo conosceva molto bene, come la nostra Maria Luisa Pezzali, che conduce tra l'altro Essere e Avere, di raccontarci, di lasciarci un ritratto, con anche delle interviste fatte nel passato a Gianpaolo Fabris, su questo nuovo approccio e analisi su cui stava lavorando, cioè la neosobrietà come conseguenza della crisi finanziaria che ha sconvolto economico e finanziaria che ha sconvolto il pianeta negli ultimi due anni, nuovi stili di consumo, cioè dopo una crisi del genere non si torna più indietro. Stiamo vivendo l'inizio di una nuova antropologia del consumo. C'è una richiesta di eticità e di sobrietà. Dopo un disagio da eccesso, il consumatore si è accorto che il bene avere non è sinonimo di benessere.

sta diventando un'agenzia di socializzazione al consumo di estrema importanza. Poi non è tanto l'e-commerce, ma il poter scambiare con altri gruppi di consumatori attraverso i blog, attraverso i forum, una serie di informazioni. Una delle caratteristiche del mercato fino a ieri era la asimmetria informativa, cioè l'informazione era chi vendeva, chi produceva a erogarla. Certo. Oggi invece è un passaparola diffuso che spesso indica i prodotti più convenienti, i posti dove posso acquistare con una maggiore riduzione di prezzo e anche, e questo è un fenomeno importante, i prodotti che hanno le carte più in regola sul fronte della responsabilità sociale, sul fronte dell'etica. Sì. Il consumatore che troviamo all'uscita del tunnel è un consumatore estremamente diverso da quello che abbiamo lasciato quando nel tunnel siamo entrati. Su queste premesse, il sociologo dei consumi spiegava anche il successo delle istanze del consumo critico con una osservazione importante. Ho qualche perplessità sul termine critico perché spesso si pensa a quello degli ambientalisti, un po' talebani, massimalisti, un po' polpottisti. Certamente c'è un nuovo modo di consumare e la crisi ha avuto un effetto maieutico perché la gente, ad esempio, in conseguenza dei farmers market, gli orti in città, l'approvvigionamento alle fonti, ha preso consapevolezza, ad esempio, della stagionalità dei prodotti, dell'importanza dei prodotti del territorio, dell'emissione di CO2 di prodotti che vengono da lontano. Cioè si sta rivisitando i propri modelli di consumo, diciamo, togliendo gli aspetti più parossistici, più patologici, e la gente si accorge che tutto sommato questo non contribuisce a peggiorare la qualità della vita. Il problema, sottolineava Fabris, è che molte aziende non si sono accorte di questo cambiamento, così come il marketing, i cui strumenti sono ormai inadeguati a partire dal nome che va cambiato in societing. Al posto del market c'è la società. E allora tutto diventa immediatamente più trasparente. È sciocco fare di tutto erba un fascio perché ci sono aziende, anche grandi aziende, grandissime aziende multinazionali che sono orientate in questa direzione, ma non è la prassi, ahimè, purtroppo. Grazie, grazie alla nostra Maria Luisa Pezzali e grazie, un ricordo affettuoso a Giampaolo Fabris. Ci mancheranno le sue analisi, ci mancherà la sua capacità di leggere i fenomeni sociali, capacità che va detto non hanno molti operatori del settore. Lui citava giustamente come deve cambiare la testa anche di chi fa marketing, di chi fa pubblicità nelle aziende. Ripeto, la neosobrietà non è neopovertà, non è neopauperismo. È il motivo per cui Zara vende molto e vendono molto anche le marche del lusso forte, e chi soffre è il settore medio-alto, quello in cui si pagava tanto senza avere il lusso e senza spesso capire il perché di questo prezzo, se non per l'effetto moda, l'effetto appunto consumismo sfrenato da cui veniamo. E la battuta è chiara, no? Allora uno compra la gonna di Zara e la giacca via Monte Napoleone e unisce le due cose. Altra dinamica sui consumi, attenzione, vedo molti messaggi. È verissimo che il biologico ha segnato un più 14% nei consumi alimentari e non sono solo i ricchi, mentre altrettanto forte è stato il consumo dei prodotti di marca della marca, diciamo, della catena distributiva, quelli che costano meno, per cui anche lì divaricazione. Neosobrietà non vuol dire consumare meno, dovrebbero ragionarci tutte le aziende che e le imprese, i marchi che lavorano sul mercato di massa, capire come si stanno spostando i nostri consumi. Devo dire che poi un po' di neosobrietà ci poteva anche stare, cioè quando capisci che, voglio dire, in famiglia sei felice lo stesso anche se hai un maglione un po' diverso, la donna la rimorchi lo stesso, l'uomo la rimorchi lo stesso anche se non sei tutto griffato, non sentiremo la mancanza di certi eccessi, se mi permettete un commento probabilmente fuori luogo. Cambiamo tema e dalla neosobrietà dei consumi passeremo alla lotta, alla battaglia, alla guerra mondiale per accaparrarsi le risorse minerarie. Quello sì che è una lotta che non prevede sobrietà. Lo facciamo dopo il meteo e dopo la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. 17.32 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa è chiusa con un calo dell'1,2% a Milano, adesso ci arriviamo. La guerra del potassio, tante guerre purtroppo abbiamo visto, anche di carattere commerciale, mai ci saremmo immaginati di vedere anche la guerra del potassio. E invece c'è tutta, 40 miliardi di dollari ha offerto BHP Billiton, primo società, colosso mondiale, numero uno al mondo nel settore minerario, 40 miliardi di dollari per comprarsi la canadese Potash, che, come dice un po' il nome, fa potascio. Ma non è finita qui, perché oggi è intervenuta la Cina, e quando si muove la Cina non si muove mai a caso, dicendo che osserva con attenzione quello che sta succedendo, anche perché la canadese Potash ha rifiutato l'offerta da 40 miliardi dicendo sono pochi, sono briciole. E allora parliamone con chi sta seguendo la vicenda sul Sole 24 Ore, Sissi Bellomo, buonasera. Buonasera. Allora Sissi, prima parte della vicenda, anzi chiediamo subito il dubbio, perché ce lo chiedono molti ascoltatori, a cosa serve il potassio, perché d'estate uno quando suda troppo va a correre, non so, anche a quello usa il potassio, ma dubito che si possano spendere 40 miliardi di dollari per comprarsi. No, il potassio è uno dei tre componenti base dei fertilizzanti, componente indispensabile. Si usano il potassio, i fosfati oppure i fertilizzanti derivati dall'azoto, ma il potassio è fondamentale per aiutare la crescita delle piante, per aggiungere nutrimento al suolo e aumentare anche la resistenza delle coltivazioni. E quindi, chiarita la domanda, non è il polase su cui si combatte, diciamo, ma sono i fertilizzanti chimici mondiali di cui ha bisogno l'America, bisogno in parte anche l'Europa, ma noi contiamo poco, ha soprattutto tanto bisogno la Cina per le sue coltivazioni intensive. Allora, prima parte della puntata, il colosso BHP Billiton, dopo varie voci, formalizza la sua offerta da 40 miliardi di dollari, che vuol dire 130 dollari per azione. Perché definita ostile? È definita ostile perché è stata rifiutata immediatamente, anche con toni molto sdegnosi dal board, dai vertici della Potash Corp, della canadese, e addirittura è stata definita un furto. Non ci opponiamo necessariamente a una vendita, ha detto Doyle, l'amministratore delegato della Potash, ma certo non accetteremo che ci derubino della società. È una valutazione che a prima vista sembra molto alta, che è abbastanza alta anche rispetto alle quotazioni di borsa quello, che aveva Potash recentemente, fino a un certo punto, perché Potash, forse illudendosi, spera di rivedere i picchi che c'erano stati nell'estate 2008, quando ci fu la crisi alimentare, ce la ricordiamo tutti, con scontri anche in alcuni paesi in via di sviluppo per gli aumenti dei generi alimentari. Anche i fertilizzanti a quell'epoca schizzarono verso l'alto di prezzo, tanto che il potassio, che adesso costa sui 370 dollari per tonnellata, allora era arrivato a costarne 1000, e il titolo Potash era arrivato a essere scambiato intorno ai 240 dollari contro i 130 offerti adesso, e i 148, che comunque è la sua valutazione attuale, molto superiore a quella dell'offerta. Ecco, allora ripercorriamo, perché in queste guerre c'è sempre chi offre, il predatore, la preda, e qualcuno che si mette in mezzo ogni tanto, il cavaliere bianco. Allora, BHP Billiton offre 140 dollari per azione, il titolo ne vale 148 più o meno. Ritiene l'amministrazione di Potash di valere di più, perché si immagina che in un futuro di economia che riparte in maniera stabile vi possano essere aumenti ulteriori del prezzo del potassio, che appunto viene scambiato a 370 dollari la tonnellata adesso, ma era arrivato fino, come tu ricordavi, nel 2007-2008 fino a 1000 dollari la tonnellata, e quindi il titolo a 250 dollari. Perfetto, o meglio, potremmo dire che è roba loro, cioè si arriveranno offerte forse più alte da parte di BHP Billiton, gli azionisti decideranno, vedremo chi consegnerà, come in qualunque OPA. Invece oggi interviene la Cina, e qui cambia tutto, perché da come la capisco io, ma vorrei conferme tue, qui c'è l'ipotesi, se la Cina dice che osserva con attenzione quello che sta capitando, e lo dice la quarta società energetica in Cina, che è Sinochem, può essere l'ipotesi che la Cina voglia entrare in gioco e fare fare il cavaliere bianco, salvare i canadesi offrendo un po' di più, tenendo dentro magari i canadesi? sono affermazioni ancora molto caute, c'è da dire, però è vero che fin da subito si era ipotizzato, e il mercato, come abbiamo visto dalle valutazioni di Potash, ci crede che ci possano essere dei rialzi o addirittura dei concorrenti, delle offerte concorrenti. Adesso il fatto che Sinochem, attraverso un portavoce, ammetta che osserva con interesse la vicenda, fa crescere un po' le voci sul fatto che i cinesi potrebbero andare in soccorso di Potash. Potash probabilmente non cerca di meglio che un cavaliere bianco, magari non sotto forma giallo. magari non sotto forma di un'altra offerta, ma magari rafforzando un'alleanza che c'è già, perché la Sinofert, che è una controllata di Sinochem, è azionista di Potash. Eh sì, questo è l'aspetto importante, è azionista di Potash e quindi vuole vederci chiaro. Perché, e chiudiamo con questo, sì, la Cina è così interessata al potassio, per i fertilizzanti l'abbiamo capito, ma sappiamo che la Cina sta mettendo le varie bandierine del suo risico nella geopolitica delle materie prime. La Cina è assolutamente interessata a dei piani di lungo periodo, quelli che i nostri governi non sono in grado di fare, anche per logica elettorale probabilmente, hanno piani di lunghissimo periodo. Lì il problema del consenso elettorale, se permetti, non esatto, c'è. È questo Cina, che ti stavo dicendo, insomma, quello che noi, le nostre economie, non riescono a fare, loro invece hanno sì una politica di lunghissimo periodo e sono consapevoli del fatto che avranno crescenti bisogni non solo di metalli o di petrolio, ma ovviamente anche di fertilizzanti, con una popolazione crescente che si arricchisce, che quindi ha esigenze alimentari anche sempre più ricche di proteine, di alimenti. La Cina non è autosufficiente assolutamente, né potrà mai esserlo con i fertilizzanti, ne produce la metà circa di quelli che usa del suo bisogno. E lì si capisce la battaglia che andrà avanti a colpi, a questo punto mi sembra abbastanza chiaro, di rialzi, a meno che BHP Billiton non molli la presa. Grazie a Sissi Bellomo, con cui immagino anche nelle prossime settimane seguiremo questa guerra del potassio. E vedo che molti di voi seguono questa vicenda, addirittura ci scrivono dei fiorai, e giustamente, segnalandoci che il prezzo del potassio al commercio è in crescita da oltre un anno. Buon lavoro anche ai fiorai. Una domanda che arriva ogni tanto, di nuovo arrivata anche oggi, ma insomma, praticamente la Cina fa manifattura, l'America detiene il controllo dell'alta tecnologia e delle spese militari, cosa farà l'Europa? C'è chi prevede che l'Europa diventerà la Svizzera del mondo, un posto bello dove andare in vacanza, dove ci sono alcuni prodotti di eccellenza, di qualità, grande stile di vita, grande welfare, e poi la Svizzera. Vabbè, non ci pensiamo adesso, manca ancora qualche decina d'anni, qualche anno, vediamo come accelera il mondo. Adesso parliamo di borsa, che chiude la settimana in negativo. Allora, Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. I motivi sono quelli che ci hanno accompagnato tutta la settimana: i dati americani di ieri e dell'altro ieri hanno messo serie ipoteche sulla robustezza della crescita americana. Questa mattina a Tokyo meno 2%, Milano chiude con un calo dell'1,22%, debolezza generalizzata sul settore bancario, Azimut oggi in particolare, società che gestisce risparmio, meno 3,6%, Azimut. Sì, Azimut oggi è stata debole, va detto, va segnalato che comunque le quotazioni sono deboli almeno dal 5 agosto, che è stata la data in cui sono stati diffusi i dati sulla raccolta per il mese di luglio, che hanno mostrato come la raccolta sia stata negativa per 2 miliardi di euro. Da quella data il titolo ha perso oltre il 10%, oggi un contesto di debolezza generalizzato per il settore, Azimut ha pagato più di altri. Gli analisti infatti sottolineano come, se continuasse questo periodo di mercato difficile con le borse in discesa, anche i risultati delle società che appunto fanno risparmio gestito potrebbero essere deludenti per fine anno. Ancora, vedo che un ascoltatore dice: la smetta di fare battute drammatiche sull'ipotesi che l'Europa possa diventare la Svizzera del mondo. Ma perché drammatica? La Svizzera ha le banche, ha il cioccolato, produce delle cose di tecnologia, si vive bene, si va a fare turismo, perché è drammatica, no? Comunque, è un'ipotesi, su, andiamo avanti, male il settore bancario, e l'abbiamo detto, diamo qualche titolo, UbiBanca meno 2,7, Monte dei Paschi meno 2,4, ancora Popolare di Milano meno 2,3%, come Intesa San Paolo, e per quello che riguarda il mondo bancario assicurativo Unipol meno 2%, Banco Popolare meno 2 anch'esso, Mediobanca meno 1,5, Generali meno 1,3. Devo dire che Unicredit ha tenuto bene, invariata oggi. Sì, Unicredit per buona parte della giornata è stata addirittura era anche positiva, sì. Poi ha chiuso appunto a meno 0,05%. A spingere le quotazioni sono state le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti sulla cessione di Pioneer. Secondo quanto riportato da alcuni media americani, infatti, per valorizzare meglio la società, Unicredit potrebbe pensare a uno spezzatino di Pioneer e una vendita separata delle attività. Questo ha oggi ha sostenuto un pochettino il titolo. Allora, due titoli ancora, Finmeccanica meno 3%, 8 euro per azione, e Mediaset, due vicende di mercato, uno riguarda l'austerità britannica su Finmeccanica, l'altra riguarda i problemi forti della controllata Endemol, che molti conoscono perché è produttrice di grandi format televisivi. Finmeccanica prima e Mediaset dopo. Sì, per quello che riguarda Finmeccanica sono appunto i piani di austerità che prepara il governo britannico, si studia su cosa potrebbe andare a tagliare nel campo della difesa e c'è il rischio appunto che il governo britannico cancelli gli ordini di acquisto per uno o due portaerei e tagli anche alcuni acquisti su 48 Eurofighter, quindi su alcuni aerei da caccia. Per quello che riguarda invece Mediaset, anche qui ci sono state delle indiscrezioni che sono arrivate dagli Stati Uniti circa il rischio di una possibile bancarotta per la controllata Endemol, appunto la società che realizza i reality show. Sembra che Goldman Sachs stia lavorando alla ristrutturazione di Endemol, anche se poi una nota nel pomeriggio ha precisato che una nota della società ha smentito questa ricostruzione, ha detto che Endemol in realtà non ha difficoltà a onorare i suoi debiti, anzi se si presentassero delle occasioni potrebbe anche essere pronta per ulteriori acquisizioni. Allora, migliori e peggiori, Isagro meno 6,1%, Crédit Agricole meno 6%, investimenti di sviluppo meno 4,70%, migliore Olidata più 14%, c'è qualcosa in una battuta che siamo un po' in ritardo su Olidata? No. Nessuna novità su Olidata, continua la speculazione. Fiammate estive, con poca gente al lavoro e molti speculano, Pininfarina più 10,80%, Carrefour più 6,70%. Ci scrive in merito al futuro dell'Europa un ascoltatore: credo invece che il nuovo sacro romano impero franco tedesco più Italia del Nord farà vedere i soci verdi a molti. Fa caldo, dove scrive, fa caldo, capisco. Comunque parliamo dell'asse franco tedesca dopo le informazioni per chi è in viaggio. Grazie e buon fine settimana a Guido Maurino e ai colleghi dell'agenzia di stampa Radio Colle Sole 24 Ore. Traffico. E allora, come promesso, ultimo tema. Oggi, mentre la Germania conferma una crescita più robusta del previsto, la Francia invece fa l'opposto. Eh sì, il governo di Parigi ha portato la stima sulla crescita nel 2011 dal 2,5% previsto prima al 2%. E invece in Germania, a Berlino, dice adesso invece noi alzeremo le stime sulla crescita nel 2010. E poi l'annuncio che la prossima settimana si incontreranno i ministri delle finanze francese e tedesco per discutere assieme la manovra finanziaria e i piani del 2011. Asse Berlino-Parigi, ne parliamo in collegamento con Parigi, con Jean-Paul Fitoussi, docente di economia all'Istituto di Studi Politici di Parigi, alla Louis Guido Carli di Roma, e presidente dell'Osservatorio francese sulla congiuntura economica. Professore, buonasera. Buonasera. E lei tra l'altro scrive e spesso interviene anche sui temi italiani, quindi conosce bene la situazione di Francia, Italia e Germania. Un primo commento su questa Francia che ha abbassato di mezzo punto la stima sulla crescita del PIL per il 2011, portandola al 2%. Quello che balza agli occhi è che c'è una Germania che rivede le previsioni al rialzo e una Francia invece che le rivede al ribasso. Come mai? Ma Ci sono almeno tre spiegazioni. La prima è che abbiamo la memoria corta e dunque vediamo gli ultimi dati. Se vediamo il biennio 2009-2010, la Francia esce, malgrado queste revisioni, molto meglio della Germania, perché il calo del PIL in Francia nel 2009 è stato di 2,3, ma di 5 punti in Germania. Dunque è normale che quando si cade molto la velocità del rialzo è più forte. Ma se facciamo il paragone, diciamo che dalla fine del 2008 la Germania ha ancora 2 punti da guadagnare sulla Francia per essere al stesso livello. Dunque non c'è veramente sorpresa in queste cifre. C'è l'andamento normale di due economie che non sono strutturate nello stesso modo. Nello stesso modo. La Germania dipende molto dalle esportazioni e la Francia molto meno. Dunque la forza della Francia è la sua domanda interna, la forza della Germania è la forza della sua domanda esterna. Ma questo significa anche che la crescita della Germania è molto più dipendente di quella della Francia. Sì, ed è il motivo per cui la Francia l'anno scorso e nel 2008 è calata molto meno della Germania e anche dell'Italia. Appunto, l'anno scorso sia Germania che Italia hanno fatto meno 5% nel PIL, la Francia ha fatto la metà, meno 2,3%, perché dipendeva meno dall'export, se ho capito il suo ragionamento. Adesso che riparte l'export, Cina, India, Brasile, anche Stati Uniti, la Germania cresce di più, la Francia cresce di meno, ma insomma bisogna guardare l'arco temporale più lungo. Lei citava però altre due ragioni, se ho ben capito, di questa differenza. La seconda ragione è che la previsione francese era più politica che reale. Nessuno credeva che la crescita in Francia sarebbe stata di 2,5. Il consenso tra gli istituti di congiuntura era piuttosto di 1,4. Dunque, questa revisione al ribasso è un fenomeno politico. E il terzo motivo? Era l'annuncio di una crescita forte. Ma adesso bisogna anche sapere che il gioco per 2010 non è finito. Non è sicuro che la crescita tedesca continuerà su questa tendenza, perché ci sono già segni di indebolimento della domanda esterna. E il mondo non è ancora veramente uscito dalla crisi, ci sono anche delle preoccupazioni negli Stati Uniti e c'è un abbassamento del dinamismo della crescita in Asia. Dunque non sappiamo se la Germania potrà crescere nello stesso modo. Ho altre due domande per lei, però vorrei sentire il terzo motivo qual è, visto che mi ha ricordato i primi due. Il terzo motivo è che la Germania non ha fatto nel 2010 un piano di rilancio molto più forte di quello degli altri paesi europei. 100 miliardi quasi. Sì, molto più forte. E dunque per il momento la Germania sta beneficiando di questo piano di rilancio forte. Certo. Allora, allora che gli altri paesi hanno fatto molto di meno. Come stimoli, diciamo, statali all'economia. Quindi lei dice, in sostanza, da un lato la Germania era caduta molto di più e quindi cresce di più perché è legata all'export, mentre la Francia era caduta molto di meno e cresce di meno perché è meno legata all'export. Secondo aspetto, c'era una stima sulla Francia in crescita al 2,5% l'anno prossimo, troppo alta per motivi politici e nessuno la riteneva credibile. Infine, attenzione, la Germania è il paese che ha messo più soldi statali per far ripartire l'economia, quasi 100 miliardi. Io poi vorrei arrivare con lei al rapporto Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, perché tutti e due sono dei leader in estrema difficoltà nel consenso dell'opinione pubblica interna dei rispettivi paesi, e non a caso martedì prossimo i ministri del bilancio francese e tedesco si incontreranno per stabilire assieme, diciamo, la finanziaria, i bilanci del 2011. Prima di tutto però vorrei concludere con un suo analisi di quella che è il rischio che in americano si chiama il double dip, cioè che vi possa essere una nuova recessione in America. Lei ritiene, stante anche le cose che ha detto, che il rischio sia di un rallentamento dell'economia o che in realtà, come alcuni temono, il rallentamento possa portare a una piccola di nuovo mini recessione? Non a livello, credo, mondiale, dico chiaramente. Credo a questo rischio, sì. No, non credo a questo rischio del double dip. Mm-hmm. Credo che il rischio vero è quello di una crescita molla, molto più molla di previsto negli Stati Uniti, e dunque una situazione dove la crescita non consente di dare soluzione a nessuno problema, né al problema della disoccupazione né al problema del disavanzo pubblico. Dei deficit, sì. Sì. Sì, quindi la politica, insomma, dell'austerità. Senta, è questa la soluzione che hanno in questo momento possono prevedere i vari governi europei? Cioè, che misura adottare? La politica economica per il 2011 è già scritta. E qual è? In Europa. Politica di austerità. Dunque, questo è già scritto. Dunque, forse la ragione perché François Baroin va a Berlino è per trovare dei modi più efficaci di coordinamento tra la Francia e la Germania. Quando c'è un divario di crescita, è normale che quello che beneficia della crescita più alta fa di più degli altri paesi. Se no, mette l'intera regione in difficoltà. Chiaro, quindi dice, da questo punto di vista poi i paesi che stanno andando meglio come la Germania devono anche ridistribuire un po' di più ai paesi che vanno peggio o che sono più in rallentamento come la Francia e anche l'Italia. Vedremo cosa uscirà da questo vertice della settimana prossima dei ministri delle finanze tedesco e francese. Interessante appunto la sua spiegazione, professor Fitoussi, sul perché la Francia cresce un po' meno, è calata un po' meno. Io nel frattempo ringrazio il docente di economia all'Istituto Politici di Parigi, era Luis Guido Cali di Roma, nonché presidente dell'Osservatorio Francese delle Congiunture Economiche, Jean-Paul Fitoussi. E poco fa un'agenzia di Axel Weber, che è presidente della Bundesbank, che dice, insomma, la crescita dell'economia tedesca dopo il più 2,2% da record segnato tra aprile e giugno dovrebbe proseguire nel terzo e nel quarto trimestre. Weber è anche intervenuto sulla gara o meglio la corsa, non è una gara, per chi sarà il prossimo presidente della Banca Centrale Europea, chi prenderà il posto di Jean-Claude Trichet. Ora, lui è uno dei candidati, quindi la dichiarazione va presa con le pinze. L'altro candidato è Mario Draghi, e oggi Weber ha detto: il prossimo presidente della Banca Centrale Europea non deve essere necessariamente un diplomatico. Essere diplomatici è importante quando si fa domanda per la carriera diplomatica, non altrettanto per una banca centrale. Allora, se conoscessimo meglio il suo carattere, potremmo capire se era una botta all'ipotesi di Mario Draghi, oppure era così un ragionamento del tutto teorico. Per ora è veramente tutto. A me non resta che ringraziare, come ogni settimana, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Pietro La Corte per l'assistenza in regia. Da Sebastiano Barisoni a voi un augurio di buon fine settimana, a chi lavora, a chi si sta trasferendo in vacanza. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.